Nei luoghi sensibili, Anonymous lancia intanto un'operazione contro i siti jihadisti. Secondo i servizi americani, tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci il Vaticano. Nessuna minaccia specifica, riferisce la Digos. Anche di questo parleremo tra poco col ministro Alfano. Gli ultimi giorni da presidente per Giorgio Napolitano, tra domani e mercoledì dovrebbe dimettersi e la trattativa sul successore è apparentemente in alto mare. Dalla dolce vita ad una morte amara, Anita Ekberg se n'è andata in un residence alle porte di Roma in povertà e oggi camera ardente per il regista Francesco Rosi. Il fine settimana di sport conferma il primato della Juve e un Totti insostituibile per la Roma, ma regala anche grandi soddisfazioni per lo sci azzurro. Ed eccoci, buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti come sempre, effettogiorno@radio24.it per scriverci, c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e come sempre c'è anche il numero di SMS durante la diretta, il 349-238-6666. In apertura dunque andiamo a Parigi, all'indomani della marcia di centinaia di migliaia di persone nella capitale francese, oltre 2 milioni in tutta la Francia, 4 giorni dalla strage nella sede del settimanale satirico francese Charlie Hebdo e a 2 da quella in un supermercato di prodotti kosher, ossia conformi ai dettami della religione ebraica. Si riunisce il governo francese, nuove misure di sicurezza in arrivo. Ci colleghiamo con Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Marco, buongiorno innanzitutto. E poi, quali sono queste misure, come ci si sta muovendo in queste ore? Ma in effetti sì, dopo la fantastica giornata di ieri in cui la democrazia ha mostrato i muscoli, è arrivato il momento delle prime misure, delle prime decisioni, dei primi annunci. Dal punto di vista operativo le cose, diciamo, le decisioni concrete già prese sono quelle di rafforzare la protezione, i servizi di protezione dei luoghi ebraici, in particolare 717 in tutto il paese, scuole, sinagoghe, con 4.700 poliziotti che fin da stamattina presidiano i luoghi. Nel contempo è stato deciso, a partire dalle prossime ore e a regime da domani sera, di schierare in tutto il paese circa 10.000 militari, anche questa protezione dei luoghi più a rischio. Si tratta di un numero assolutamente inedito, un numero pari, tanto per avere un'idea, a quello dei militari che sono impegnati, dei militari francesi che sono impegnati attualmente nelle operazioni all'estero. E poi ci sono gli annunci di quello che il governo vorrebbe fare, ma evidentemente alla ricerca di un accordo con l'opposizione e poi di un via libera parlamentare. In particolare i fronti sono 2 annunciati questa mattina dal premier Manuel Valls. Il primo è quello di estendere l'isolamento carcerario degli estremisti fondamentalisti. Il carcere è notoriamente un luogo chiave dei processi di indottrinamento, reclutamento, radicalizzazione di molti giovani. Attualmente sono in isolamento circa 25 persone, 25 terroristi sospetti, terroristi islamici, estremisti islamici nelle carceri francesi. L'obiettivo è quello di estendere questo isolamento a una popolazione di oltre 100 persone. L'altro fronte è quello delle intercettazioni, e cioè quello di poter aumentare e migliorare il livello di intercettazioni nei confronti, appunto, delle persone sospette e di controllo anche sulla rete. E brevemente, Marco, è stata anche l'occasione, la riunione di questa mattina, per una sorta di resa dei conti. Ne abbiamo parlato a lungo nel corso dello speciale che abbiamo dedicato ai fatti di Parigi nel pomeriggio di venerdì, ossia come le maglie dell'intelligence siano state un po' troppo larghe rispetto alle persone che poi hanno colpito effettivamente nella capitale francese. Che ci siano state delle falle nel lavoro dell'intelligence è evidente, lo ha ammesso lo stesso Premier nei giorni scorsi. Fonti dell'anonima e dell'intelligence fanno notare che le persone teoricamente da seguire, da controllare passo dopo passo, sono moltissime ormai, si parla di oltre 200 persone. persone, per ognuna di queste servirebbero 24 agenti per controllare, analizzare i dati, decrittare i messaggi. Le forze e le risorse non sono sufficienti per seguire tutti, quindi sicuramente c'è stato un errore, su questo non c'è alcun dubbio, clamoroso nell'analisi dei dati relativi ai tre terroristi, però sicuramente c'è un problema anche di mezzi, di risorse, di uomini, e il governo è intenzionato a dare ai servizi i mezzi necessari per combattere quella che ormai è una vera e propria guerra. Grazie a Marco Mussanei, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. I controlli e la sicurezza, si diceva, sono questi temi naturalmente al centro dell'agenda politica italiana ed europea in questa fase. Sentiamo. Rivedere l'accordo di Schengen è uno dei punti sui quali l'Europa si confronta dopo gli attentati di Parigi. A chiedere di ripensare il trattato sulla libera circolazione sono soprattutto Francia e Spagna. Pur condividendo la necessità di rafforzare i controlli alle frontiere, il nostro governo invece frena, nella convinzione che rivedere quella che è una delle maggiori conquiste del vecchio continente sarebbe un regalo ai terroristi. Anche di questo hanno parlato ieri a Parigi i ministri dell'interno degli 11 paesi europei più esposti al rischio del terrorismo islamico. Fra le ipotesi allo studio ci sono anche una stretta sul web e nuove norme per consentire la trasmissione da parte delle compagnie aeree dei dati personali dei loro passeggeri. Le misure antiterrorismo saranno anche al centro del vertice che si terrà a febbraio negli Stati Uniti. Nel nostro paese intanto l'allerta resta massima. A Roma sono state rafforzate le misure di sicurezza attorno agli obiettivi sensibili, compresa la scuola ebraica, mentre forze dell'ordine e servizi fanno sapere che al momento non ci sono riscontri su minacce concrete per il Vaticano, che secondo un rapporto dell'intelligence americana reso noto dalla stampa internazionale potrebbe essere uno dei prossimi obiettivi dei terroristi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Di tutto questo torneremo a parlare tra poco anche col ministro dell'Interno Angelino Alfano, come già vi dicevamo nei titoli. Maggiori controlli sul web, si diceva, e nel frattempo è partita da due giorni un'operazione del gruppo di attivisti hacker di Anonymous contro i terroristi. We always fought for freedom of speech. We will not give in. Abbiamo sempre combattuto per la libertà di espressione, dicono in questo video, e non lasceremo perdere adesso. Saluto Carola Frediani, che è giornalista freelance, scrive per varie testate, Wired, Wired.it, L'Espresso, ha pubblicato due ebook, il più recente dove si parla anche di Anonymous e Deep Web, la rete oltre Google, personaggi, storie e luoghi dell'internet profonda. Carola, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Come si caratterizza questa operazione di Anonymous? Ma innanzitutto un'operazione che è nata e si è sviluppata in modo molto rapido, cioè quasi nell'immediatezza della tragedia parigina, e si sviluppa chiaramente nei network di chat online, dove tendenzialmente, tradizionalmente, i membri, diciamo, di Anonymous si riuniscono e in qualche modo comunicano e si coordinano. E la cosa che colpisce è che rispetto a altre operazioni dei mesi scorsi, questa ha raccolto subito una grande partecipazione e adesione. Sicuramente c'è forse anche una spinta, probabilmente anche è stata originata in qualche modo da utenti francesi, ma ha raccolto subito un consenso molto variegato e internazionale. Carola, sta già avendo un primo impatto questa operazione? Cioè, che cosa sta succedendo sulla rete? Ma praticamente questa operazione ha due obiettivi principali: da un lato colpire siti web jihadisti, dall'altro in qualche modo silenziare i social media legati a questi profili. E quindi finora l'operazione sembra soprattutto su questo secondo aspetto, cioè molti account Twitter che sono segnalati in massa alla stessa Twitter, in modo da farli chiudere o sospendere per la stessa, diciamo, violazione dei termini di servizio poi alla fine. E quindi questo è sicuramente quello che sta andando più velocemente. Si parla già di oltre un centinaio di profili segnalati, e poi bisognerà vedere invece la parte più di hacking rivolta ai siti web, che tipo di effetto avrà. Lì finora non è che ci siano stati grossi risultati. E naturalmente è una cosa che richiede più tempo. Io intanto ti ringrazio. Ringrazio Carola Frediani, lo ricordo ancora, giornalista freelance, scrive per varie testate, tra cui Wired.it, sulla quale ha scritto un bel pezzo proprio su questo. È autrice di un libro recente, Deep Web, la rete oltre Google, personaggi, storie e luoghi dell'internet profonda. Se volete maggiori informazioni su questa operazione, vi basta andare su Twitter. L'hashtag è OpCharlieHebdo, tutto attaccato naturalmente. Passiamo alle altre notizie e poi torneremo sulle questioni di terrorismo e sulle vicende di Parigi, iniziando naturalmente dalla corsa, se così possiamo dire, per la Presidenza della Repubblica. Entro un paio di giorni il presidente Giorgio Napolitano rassegnerà le sue dimissioni e questa corsa pare al momento in alto mare. Vincenzo Miglietta, è così? Buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così, dimissioni che secondo tutte le previsioni dovrebbero arrivare in settimana. Domani termina infatti ufficialmente il semestre europeo a guida italiana, è questo uno spartiacque al quale Giorgio Napolitano ha fatto sempre riferimento per poi compiere il passo indietro. Da mercoledì 14 gennaio dunque tutto potrebbe accadere, anche questo tema potrebbe esserci stato nel faccia a faccia di questa mattina tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio Renzi. Quest'ultimo sarebbe preoccupato dalle ricadute che la partita del Colle potrebbe avere sull'iter parlamentare delle riforme. Ricordiamo che proprio questa settimana sono in aula al Senato la legge elettorale e alla Camera quelle istituzionali. Ecco perché Renzi punta ad un nome per il Quirinale concordato con Berlusconi che sin dalle prime votazioni abbia le sufficienti chance per essere eletto. Impantanarsi come accadde nel 2013 sulle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica vorrebbe dire creare uno scenario che metterebbe a rischio non solo le riforme ma l'intera legislatura. Quanto al toto nomine, la trattativa sarebbe, dicevamo, però in alto mare. Tolto Prodi, candidato di un fronte trasversale, esisterebbe una rosa di nomi esaminata durante le feste da Renzi e Berlusconi. Nella lista comparirebbero tra gli altri Veltroni, Fassino, Mattarella e Castagnetti, due le donne in corsa, Finocchiaro e Bonino. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta ancora con le altre notizie, innanzitutto quelle che arrivano dall'India. Un breve aggiornamento per quanto riguarda la vicenda di due Marò. I termini di scadenza del permesso sanitario concesso a Massimiliano Latorre per il suo rientro in Italia, in India, dall'Italia sono sospesi in attesa dell'esame dell'istanza italiana di proroga prevista per mercoledì alla Corte Suprema. Latorre, come sapete, è stato operato a Milano recentemente. Dunque mercoledì arriverà la decisione della Corte su questo fronte. E noi restiamo all'estero per parlare di un anniversario importante. 5 anni fa un sisma devastò l'isola di Haiti. Nei confronti degli haitiani la generosità degli italiani, almeno allora, non si fece attendere. Si stanno scavando veramente con le mani, con le unghie, per tirar fuori la gente da sotto le macerie. La situazione è disperata. Sono passati 5 anni, ma ad Haiti siamo ancora all'anno zero. I segni del terremoto che il 12 gennaio 2010 colpì la capitale con una scossa di magnitudo 7 sono ancora tutti lì. La gente vive ancora in case semidistrutte o negli accampamenti, sorti all'indomani del terremoto, mai smantellati. Stefano Zannini, di Medici Senza Frontiere. Io ero capomissione, ero presente fisicamente a Porto Principe al momento del sisma e ricordo un paese che sostanzialmente è lo stesso paese che ci ritroviamo oggi, con livelli di povertà molto importanti, con livelli di criminalità, accesso a sanità e educazione molto, molto limitato. E le cose non vanno meglio dal punto di vista prettamente sanitario, come spiega Azada Locco, capo missione a Port-au-Prince, sempre di Medici Senza Frontiere. La ricostruzione del settore sanitario non è stata fra le priorità dei finanziatori. Haiti, tra l'altro, rimane anche la Repubblica delle ONG, le organizzazioni non governative. Dal 2010 nel paese sono stati spesi 14 miliardi di dollari per gestire l'emergenza, ma non sempre sono stati spesi opportunamente. La Corte dei Conti europea ha calcolato che su 13 progetti soltanto 2 sono andati a buon fine. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport per chiudere questa prima parte di Effetto Giorno. Ci ritroveremo poi dopo il traffico, come sempre, per tutti gli altri argomenti. Iniziamo naturalmente dal calcio, tra una Juve che conferma il primato e una Roma che si vede confermata l'insostituibilità di Totti. Carlo Genta. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Beh, la Juventus non solo conferma ma rafforza il primato e anzi è campione d'inverno, vincendo a Napoli dopo 14 anni. C'eravamo quasi illusi di uscire da una domenica difficile che proponeva il derby di Roma e che proponeva Napoli-Juventus senza grandissime polemiche. Non ce l'abbiamo fatta perché al 24esimo del secondo tempo c'è stato questo gol del 2-1 della Juventus segnato da Caceres, probabilmente in fuorigioco per una cinquantina di centimetri. Ne sono nate ovviamente mille polemiche che ci ritroveremo addosso anche oggi. Rimane comunque il dato calcistico, che secondo me è quello che conta, di una Juventus che ha giocato meglio del Napoli, un Napoli in fondo deludente. Non è stata una grande partita, ma la Juventus l'ha portata a casa aprendola con un grandissimo gol di Pogba. Poi il pareggio napoletano con Britos e alla fine Caceres e Vidal a chiudere questa gara, che dà ora alla Juventus 3 punti di vantaggio sulla Roma, che ha pareggiato in rimonta un derby, questo sì, davvero molto bello e molto ben arbitrato da Orsato, ma soprattutto giocato in maniera meravigliosa da Francesco Totti, anni 38, che ha rimontato i 2 gol della Lazio, che ha fatto discutere, fa discutere tutta l'Italia per questa idea bizzarra del selfie sotto la curva. Comunque resta il fatto che Juventus 43, Roma 40, la Lazio si conferma in uno splendido momento ed è terza da sola, il Napoli è agganciato dalla Sampdoria che ha battuto a fatica l'Empoli, anche qui qualche contestazione, anzi più di qualche contestazione per l'Empoli. E poi resta l'Inter che ha giocato un'ottima gara, un'eccellente gara con il Genoa, vincendola 3-1 e si è confermata in progresso. Questi alcuni, solo alcuni dei temi che tratteremo poi. Naturalmente, in tutti convocati a partire dalle 14. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Le notizie di questa giornata, iniziando dalle ultime due appena battute dalle agenzie, innanzitutto una di economia riguarda Fiat Chrysler, che ha fatto sapere che inserirà nei prossimi 3 mesi 1500 nuovi lavoratori nello stabilimento di Melfi, dove con un investimento di oltre 1 miliardo di euro vengono prodotte la Renegade e la Fiat 500X, e ha annunciato ai sindacati la chiusura della cassa integrazione con rientro immediato al lavoro di tutti i 5400 dipendenti. L'altra notizia riguarda la vicenda di Stefano Cucchi. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma, nella motivazione della sentenza con la quale nell'ottobre scorso sono stati assolti tutti gli imputati, hanno mandato gli atti al PM per nuove indagini, appunto, sulla morte di Stefano Cucchi. Le altre notizie sono che all'indomani della marcia di Parigi la Francia ha stretto le maglie sulla sicurezza, saranno 10.000 militari nei luoghi sensibili, e nel frattempo Anonymous ha lanciato un'operazione contro i siti jihadisti e gli account dei social network, appunto, di jihadisti. Secondo i servizi americani, tra i prossimi obiettivi dei terroristi potrebbe esserci il Vaticano. Nessuna minaccia specifica, riferisce la Digos, ne parleremo tra un attimo con il ministro dell'interno Angelino Alfano. Sono gli ultimi giorni da presidente per Giorgio Napolitano, tra domani e mercoledì dovrebbe dimettersi, intanto è aperta la trattativa sul successore, ma apparentemente è in alto mare. Dalla dolce vita ad una morte amara, Anita Ekberg se n'è andata in un residence alle porte di Roma in povertà, e oggi è in corso la camera ardente per il regista Francesco Rosi. Lo sport, abbiamo chiuso la prima parte di Effetto Giorno raccontando di calcio, però vogliamo parlare adesso dei segnali importanti di rinascita per il nostro sci che arrivano dalle prove di Coppa del Mondo di ieri. Nel fondo, dopo i 2 successi stagionali di Federico Pellegrino nello sprint, è arrivata la vittoria di Roland Clara nella tappa del Monte Cermis, che ha chiuso il Tour de Ski, e nello sci alpino prima vittoria in carriera per Stefano Gross, già sfortunato quarto alle Olimpiadi di Sochi, che ha trionfato nello slalom speciale di Adel Boden in Svizzera. Per gli azzurri c'è anche il quarto posto, il Renato Razzoli, ma sentiamo Grossi intervistato dal nostro Dario Ricci. Di certo una giornata straordinaria, è ormai da qualche anno che sto tentando di vincere una gara, quindi nel 2012 ci sono andato molto vicino, poi ho avuto 2 anni con parecchi problemi sia a casa che comunque anche miei fisici, e quindi non ci sono mai riuscito. Dall'inizio di stagione pensavo di non riuscirci ancora, visto i problemi di schiena che ho avuto, ma per fortuna sono riuscito a risolverli bene nelle ultime 2-3 settimane, quindi penso che adesso si vedano anche i risultati. Tu tutta la squadra ha fatto bene, a partire anche da quel Razzoli che si è rivisto nelle primissime posizioni, ai piedi del podio, quarto, segnale importante in vista dei mondiali, no? Ma senz'altro segnale molto importante, poi si sentiva parlare solo di squadra di discesa e gli slalomisti in calo, e quindi per fortuna siamo riusciti di nuovo a far vedere che ci siamo anche noi e speriamo di andare avanti così. Saluto Angelino Alfano, ministro dell'Interno, bentornato ai nostri microfoni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Abbiamo letto in queste ore di molte indiscrezioni circolate sulla stampa di indicazioni che sarebbero arrivate dall'NSA e dai servizi americani su un possibile attacco al Vaticano. Qualcuno ha detto è il prossimo obiettivo. Che cosa ci dice, che cosa sappiamo su questo? Nel sistema delle nostre relazioni con le altre autorità di sicurezza degli altri paesi abbiamo ulteriormente verificato questa informazione e a noi non risulta. Quello che invece risulta e che è purtroppo evidente è che il Vaticano è stato più volte citato, è stato più volte evocato nei messaggi di quello lì che si è autoproclamato califfo, e la bandiera nera sul cupolone di San Pietro è un messaggio che non è difficile da interpretare e che io non leggo solo simbolico e non leggo solo in riferimento all'Italia. Ecco perché noi non sottovalutiamo nessuna ipotesi, neanche quella apparentemente più labile, flebile, tenue, e non sottovalutiamo nessun indizio. Ma in riferimento a quello che hanno detto alcuni organi di informazione, noi abbiamo fatto ulteriori verifiche e non ci risulta. Benissimo, quindi ancora una volta attenzione molto alta, ma non risultano minacce specifiche. Possiamo dire lo stesso per quanto riguarda il resto d'Italia e Roma in particolare, naturalmente la capitale? Esattamente, noi non dobbiamo creare un eccesso d'allarme, ma dobbiamo dire con grande chiarezza che non esiste oggi un paese a rischio zero, non esiste un paese a rischio zero. Noi stiamo mettendo dunque oggi, come ieri, le nostre migliori energie, i nostri più abili esperti di intelligence, i nostri uomini di eccellenza dell'antiterrorismo, delle forze di polizia, insieme dentro il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, a valutare ogni segnale, ogni indizio, tenendoci in contatto con le autorità di pubblica sicurezza degli altri paesi europei, in un rapporto di cooperazione forte con gli Stati Uniti d'America, perché la chiave della prevenzione è la circolazione, riservatissima ovviamente, delle informazioni tra le forze di polizia dei vari paesi. Certo, Ministro, si è parlato molto in queste ore di una possibile revisione di Schengen o comunque di un'attenzione maggiore a cosa, a chi transita da un paese europeo all'altro. Le sembra pensabile una revisione quantomeno temporanea degli accordi di Schengen? Innanzitutto io non ho percepito nessuna distinzione tra l'Italia, la Francia, la Spagna, gli altri paesi europei sul tema di Schengen. Poi bisogna capirsi nel pratico, nel concreto. L'obiettivo di Schengen è la libera circolazione tra i paesi europei, dentro l'Europa. Allora l'Europa ha le vecchie frontiere, quelle derivanti dalla Seconda Guerra Mondiale, e le ha cancellate tramite Schengen. Se serve operare delle eccezioni per casi, appunto, come dice la stessa parola, eccezionali, si è già verificato, perché dentro il trattato di Schengen ci sono delle eccezioni che si possono far valere. Ma l'obiettivo principale è proteggere i confini esterni all'Europa, quelli che separano l'Europa da ciò che Europa non è. E allora noi cosa stiamo facendo? Stiamo potenziando il sistema delle banche dati europee in modo tale che possiamo avere più informazioni possibili su quelli che transitano, e stiamo cercando di ottenere l'ok, noi governi europei ed anche la Commissione europea, stiamo tentando di ottenere l'ok dal Parlamento europeo per una direttiva che si chiama Passenger Name Record, cioè la registrazione del nome dei passeggeri, in modo tale da avere dalle compagnie aeree la lista degli imbarcati per i singoli voli e di poter trattenere nelle banche dati queste indicazioni per alcuni anni, sicché si potrebbe ancora meglio proteggere la Europa attraverso la frontiera con queste liste, sapendo bene chi transita, chi entra e chi esce dall'Europa, per l'Europa e così via. ma fin qui il Parlamento europeo ha opposto il principio e il valore della privacy, che è un principio valore di altissimo livello per la tutela delle persone, e ha detto di no. Noi crediamo che bisogna lavorare ad un compromesso per cui, per esempio, si dica: invece che tenere questi nomi per 5 anni, li teniamo 3 anni nelle nostre banche dati, ma chiediamo alle compagnie aeree di darcele, e speriamo che il Parlamento europeo dia l'ok a questa mediazione. A proposito di privacy, immagina una stretta dei controlli anche sulla rete, su internet, Ministro? Sulla rete noi abbiamo avviato una importante cooperazione con i colossi del web. Io, come presidente del semestre europeo, ho chiesto e ottenuto a Microsoft, Google, Twitter, Facebook, insomma ai colossi del web, un incontro in Europa e poi come ministro italiano qui a Roma, in modo tale che noi possiamo essere agevolati nella costruzione di una controretorica che possa fare da contraltare ai messaggi che veicola la rete dal punto di vista del reclutamento terroristico, comunque dei messaggi inneggianti allo Stato islamico. Quindi una sorta di struttura di informazione. Ministro, una sorta di struttura di controinformazione al terrorismo. Controinformazione è proprio un contromessaggio, una controretorica, ma questo è un aspetto. L'altro aspetto è rafforzare i poteri dell'autorità giudiziaria di spegnere i siti attraverso cui si veicolano i messaggi inneggianti all'odio e che possono essere anche contenenti tentativi di reclutamento di aspiranti jihadisti, di aspiranti combattenti, anzi terroristi e criminali. E allora questa norma, che potenzia i poteri attualmente esistenti, io la proporrò nell'ambito del disegno di legge che sottoporrò al Consiglio dei Ministri al più presto. Grazie, grazie al Ministro dell'Interno Angelino Alfano, buona giornata naturalmente e buon lavoro. Noi adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo di Anita Ekberg. È morta ieri, direi di lei resta l'immagine in molti film, ma anche una vecchiaia nell'ombra. È stata la musa di Fellini, il simbolo della dolce vita, Miss Svezia e l'amante dell'avvocato Gianni Agnelli, ma è morta sola e povera. Anita Ekberg, che pure ha avuto 2 mariti e una proposta di matrimonio da Frank Sinatra, non ha mai avuto figli e da anni aveva lasciato la sua amata villa di Genzano, rimasta gravemente danneggiata da un incendio. Per colpa delle sue precarie condizioni economiche non ha mai potuto ristrutturarla. Alle prese con problemi di salute che l'avevano costretta su una sedia a rotelle, ma soprattutto con quelli economici, la Ekberg si era dovuta trasferire in un residence alle porte di Roma. Nel 2011 il comune di Velletri aveva nominato un amministratore di sostegno che aveva chiesto di poter ricorrere anche alla legge Bacchelli, cosa che però non è stata possibile, perché la Ekberg non è mai diventata cittadina italiana e nemmeno aveva girato in Italia la maggior parte dei suoi film, come richiede la stessa legge. Fu organizzata allora un'iniziativa insieme alla Fondazione Fellini di Rimini. Dopo i funerali, che saranno celebrati probabilmente tra domani e mercoledì a Roma, verrà aperto il testamento con le ultime volontà dell'attrice. Si saprà così a chi sarà destinata la villa ai Castelli Romani, cui la Ekberg era così tanto affezionata. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La Francia stringe le maglie della sicurezza, saranno 10.000 militari nei luoghi sensibili. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ai nostri microfoni, intanto smentisce che ci sia una minaccia specifica che riguarda il Vaticano, come circolato in queste ultime ore. Gli ultimi giorni da presidente per Giorgio Napolitano, tra domani e mercoledì dovrebbe dimettersi, la trattativa sul successore è apparentemente in alto mare. Fiat Chrysler inserirà nei prossimi 3 mesi 1.500 nuovi lavoratori nello stabilimento di Melfi. Rientro intanto immediato al lavoro per tutti i 5.400 attualmente in cassa integrazione. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha inviato al PM gli atti per nuove indagini sulla morte di Stefano Cucchi. La borsa. Arca SGR, più valore agli investimenti. Vi presenta Borse in diretta. Tutto bene oggi a quanto pare, più 1,14% il FTSE MIB, più 1,01% il FTSE All Share, Parigi guadagna l'1,47%, Francoforte 1,5%, Londra lo 0,26%. Isabella Tasso, Radio Cor, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Cosa dobbiamo, i rialzi di oggi? Piazza Affari viaggia spedita, come hai detto, segue l'onda degli altri mercati europei che recuperano parte delle recenti perdite. Il clima resta comunque improntato alla cautela, visto la debolezza del petrolio e la situazione situazione in Grecia. A Piazza Affari vanno bene alcuni singoli titoli, Mediaset fa più 3,6% e le Atlantia fanno più 3,3%, questo sull'ipotesi che il gruppo possa cercare un partner per la controllata Autostrade. Va molto bene anche Autogrill, più 3%, debole invece Saipem che fa meno 6% e risente del nuovo calo del greggio e della flessione del numero di pozzi attivi per l'estrazione. Abbastanza bene le banche, con l'eccezione del Monte dei Paschi, meno 1%, Popolare Emilia Romagna meno 1,2% e soprattutto di Carige che cede l'8% dopo che la Consob ha chiesto l'annullamento del bilancio 2013. Grazie Isabella Tasso e grazie ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La marcia di ieri di Parigi può rappresentare qualcosa di nuovo? Un momento nuovo? Ci siamo chiesti e se l'è chiesto il nostro Daniele Biacchessi. Ma a quanto pare il servizio non è pronto, vediamo se il nostro Paolo Corleoni è pronto a lanciarlo. No, pare di no. Allora facciamo così, iniziamo da una nostra collega giornalista, Barbara Serra, che lavora per Al Jazeera a Londra. Barbara, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, ti abbiamo chiamata perché in questi giorni, quantomeno sui giornali italiani, non so quanta eco tutto questo abbia avuto sulla stampa internazionale, se non erro aveva scritto un articolo e tutto è partito da un articolo della National Review, perché si è parlato di uno scontro all'interno della vostra redazione su come trattare il tema e la vicenda di Charlie Hebdo, con gli stessi limiti sui quali si sta ragionando in questi giorni e sui quali stanno ragionando anche i mezzi di informazione americani, penso tanto per dire al New York Times, ma anche a molti altri. Insomma, stiamo parlando di vignette che comunque in qualche misura offendono 1,2 miliardi di persone. Naturalmente in una redazione come la vostra il dibattito immagino che sia più intenso e più forte. Avete ricevuto delle indicazioni specifiche su come trattare questa vicenda? Allora, e quello che è stato detto in certi articoli che parlavano di queste email, e questo non è vero. Quello che è successo è che, sai, noi siamo una redazione, in tutte le redazioni ci sono dibattiti più o meno accesi, e io credo che ad Al Jazeera English, perciò il canale internazionale di Al Jazeera, quasi sicuramente siamo la redazione più variata al mondo, per tutto, per nazionalità e anche per religione. Perciò da noi veramente hai un dibattito editoriale che io credo in effetti sia il riflesso del vero dibattito che c'è a livello mondiale. Allora la realtà è che c'è tanta gente che ovviamente, io non ho parlato con nessuno, né dentro Al Jazeera, né ascoltando Al Jazeera o anche leggendo altri siti o canali arabi, non ho sentito nessuno che non abbia condannato i killings che abbiamo visto a Parigi, le atrocità che abbiamo visto a Parigi, perciò tutti le hanno condannate, però molti dicono io condanno quello che è successo, ma questo non vuol dire che io necessariamente sia d'accordo con quello che ha fatto Charlie Hebdo. E io credo che a livello internazionale mondiale, proprio se parliamo di libertà di espressione, dobbiamo avere un dibattito aperto e onesto e sentire anche quelle voci. Quindi Barbara, non c'è stata quella che è stata definita come una spaccatura, è semplicemente un momento di riflessione come avviene, come dire, in tutte, e come è normale che sia in tutte le redazioni, insomma. Sì, il problema è che però quando c'è una redazione come Al Jazeera, dove credo che abbiamo una settantina di nazionalità diverse con tutte le religioni, perché sai, noi parliamo sempre di occidentali e musulmani, sai, musulmani se sei libanese, Arabia Saudita, Pakistano, afghano, se sei un musulmano in Inghilterra, sono delle realtà completamente diverse come da occidentali, americani, italiani o inglesi. Perciò è un dibattito acceso, ma credo che quello che è importante capire è che c'è un dibattito reale. Ad esempio noi abbiamo parlato anche della hashtag su Twitter, come c'è Je suis Charlie, che quello ovviamente è stata seguita quasi ovunque, c'è anche Je suis Ahmed. Ahmed Merebet è il poliziotto che è stato ucciso fuori dagli uffici della redazione di Charlie Hebdo. E mi è rimasto impresso un tweet, e poi io ho parlato con questo ragazzo che ha fatto andare questo tweet ovunque, e lui ha detto: io sono Ahmed, cioè il poliziotto che ha perso la vita difendendo il diritto di Charlie Hebdo di insultare la propria religione. Perciò diciamo che è una storia molto complessa, e soprattutto quando si parla di libertà di espressione, quando si parla di dialogo, parte del dialogo vuole anche dire accettare che certa gente non la penserà mai come noi. C'è tanta gente che dà più valore a quello che loro credono sia avere rispetto per la propria religione, che non per la totale libertà di espressione. Però detto questo, i giornalisti nel Medio Oriente in questo momento muoiono ogni giorno per la libertà di espressione. Guarda, cioè ISIL ne ammazza a decine in Siria e in Iraq, e noi così non li contiamo neanche più. Noi ne parliamo molto degli occidentali, giustamente, perché insomma siamo a casa nostra, però non è un problema bianco-nero, è molto complesso e bisogna essere onesti quando se ne parla. Ti ringrazio, grazie anche per la tua onestà. Barbara Sera, giornalista di Al Jazeera a Londra, e ci ha anche ricordato, tra l'altro, perché questo va detto, che la maggior parte dei giornalisti uccisi da ISIS e dagli jihadisti sono esattamente musulmani. Si diceva, può partire un nuovo movimento per la pace dalla marcia di ieri di Parigi. Daniele Biacchessi. 2 milioni di persone in piazza a Parigi, 4 milioni in tutta la Francia e ancora cortei, fiaccolate, presidi in tutto il mondo. In Italia sabato pomeriggio in 10.000 si sono presentati in piazza Duomo con il solo passaparola e il tam-tam amplificato sui social network. E con lo stesso metodo in tanti si sono dati appuntamento ieri pomeriggio davanti al consolato francese di Milano. Grandi manifestazioni si sono tenute in questi giorni in moltissime città italiane: Parma, Bologna, Massa, Roma, Bari. Gli organizzatori sono stati giornalisti, scrittori, associazioni, privati cittadini. L'alta partecipazione si è espressa sempre comunque fuori dai movimenti politici, ai cui militanti è stata vietata l'esposizione di striscioni o simboli di partiti. Non c'è un noi e voi, noi cattolici, voi musulmani, noi italiani, voi stranieri, ma chi chiede diritti, chi imbraccia le armi, ha spiegato a Milano Cecilia Strada di Emergency. Sono qui come milanese di vecchia data per sottolineare agli italiani che siamo dalla loro parte, non dall'altra, ha detto Abdel Hamadi Shari, fondatore dell'Istituto Culturale Islamico di Viale Jenner. Questa libertà di informare e di criticare ci pare preziosa, specie quando viene attaccata, ha ribadito a Bari il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Puglia, Valentino Losito. Cosa spinge questa moltitudine di persone a sfilare in corteo con le sole bandiere della pace per dire no al terrorismo dopo le stragi di Parigi? Il livello di violenza è che si è espresso nella capitale francese in poche ore ha dapprima reso tutti più soli, impotenti, perché una strage in tempo di pace divide, mette paura, spegne le luci delle case, colpisce le istituzioni e i valori fondanti della convivenza. Poi la paura si è trasformata in rabbia, in consapevolezza, e alla fine ha prevalso il coraggio e la saggezza della società civile. In Italia era da lontano 2003, nei giorni dell'appoggio italiano alla guerra in Iraq, che non si vedevano in piazza movimenti per la pace. Eppure il nostro paese, lo ricordiamo, è anche quello di Aldo Capitini, di Danilo Dolci, di padre Ernesto Balducci, di Don Milani, di quelle grandissime oceaniche marce Perugia Assisi. Da qui forse bisogna partire, perché senza una cultura di pace la guerra rimane sempre orrore. Un'ultima notizia prima di andare in pausa a sentire cosa succede sulle strade. Una vicenda che farà discutere ancora una volta e che riguarda la Francia. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per apologia di terrorismo a carico del controverso umorista e comico Dieudonné. Ve lo ricorderete, è entrato ampiamente nel dibattito proprio per alcune sue posizioni nitidamente anti-ebraiche. Ieri sera su Facebook Dieudonné aveva scritto di sentirsi Charlie Koulibaly. Koulibaly, lo ricorderete, è uno dei tre terroristi che hanno colpito a Parigi nei giorni scorsi. Ebbene, appunto, è indagato per apologia di terrorismo. Noi adesso ci fermiamo, sentiamo che cosa succede sulle strade. Poi naturalmente, come sempre, sarà il momento di Mario Platero. Avrete sentito che da effetto giorno oggi abbiamo quasi omesso le notizie sul Golden Globe. È proprio a questo dedicata l'intera puntata di America 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E come si diceva, questo è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24.

Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @america24. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, abbiamo parlato più di economia che di terrorismo, ma vorrei tornare ancora una volta col nostro pensiero a quello che è successo a Parigi la settimana scorsa e dedicare la canzone alle vittime di questo attacco orrendo, con una canzone di Rihanna, World Peace, pace mondiale, che secondo indiscrezioni che abbiamo avuto potrebbe diventare il singolo apripista di un intero progetto di nuovo album che sta mettendo appunto la grande cantante Rihanna, World Peace. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Ultima notizia prima di chiudere. Il prossimo numero di Charlie Hebdo, che uscirà mercoledì, includerà, aperte virgolette, ovviamente, così dice il legale del magazine francese, nuove vignette su Maometto, sulla politica e le religioni. Così appunto il legale del magazine francese, Richard Malka, ricorda anche che lo spirito di Io sono Charlie significa anche appunto diritto alla blasfemia. Ed è tutto per Effetto Giorno. I ringraziamenti, Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, come sempre tutta la redazione di Radio 24 per il lavoro svolto. Per scriverci, effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook per un altro tipo di contatto, www.facebook.com/effettogiorno. Naturalmente la trasmissione torna domani alle 13 come sempre. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.